Che cosa serve inviare all'URP anagrafe per ottenere la residenza? Per richiedere la residenza, devi compilare il modulo di dichiarazione di residenza. Compili il modulo di dichiarazione di residenza per te e anche per la tua famiglia, se sei maggiorenne, se abiti con altre persone o solo se hai con loro una convivenza anagrafica, cioè vivi con loro in un collegio, in un convitto, in una caserma o in una casa di riposo. Allora è il capo convivenza che fa la dichiarazione al tuo posto. Al modulo di dichiarazione di residenza devi aggiungere alcuni documenti. Trovi l'elenco di questi documenti qui sotto.